prima edizione. L'informazione del mattino. E l'informazione del mattino anche questa giornata, ancora buongiorno da Anna Migliorati, l'apriamo con uno sguardo ai giornali, ma andiamo nelle pagine degli spettacoli, tanto per cominciare. Pagina del Corriere della Sera, siamo a pagina 54, Simona Ventura, brava la Cabello, ma fa l'8% con quel dato, a me tagliavano le orecchie. Punzecchiature della Ventura, perché si comincia su X Factor, ma si comincia questa volta su Sky, ci sarà televoto, puntato in HD, finalissima in 3D, Sky che cerca di dare il meglio per lo show rubato alla Rai insieme a Simona Ventura, che ieri si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa, è tornata ad attaccare l'ex direttore di Rai 2 Massimo Lioffredi, che ora annuncia che la citerà per danni. Ha parlato, dicevamo, di quelli che le calcio. Cominciamo così, facendovi sentire Simona Ventura. Vittoria Cabello è bravissima, è un programma complesso, difficilissimo, sì. E quindi insomma ha tutto il mio appoggio e l'in bocca al lupo. Fa piacere vedere che comunque se io avessi fatto l'8% dei share mi tagliavano le orecchie. A me fa piacere che questo non... A lei sicuramente viene sicuramente più protetta dai media, e questo buon per lei. Prima edizione. Prima edizione con le notizie di oggi, come sempre allora lo sguardo a quelli che sono i temi della giornata dai quotidiani in edicola. I temi sono pressoché gli stessi con scelte leggermente diverse, ma i temi a dominare sono l'economia innanzitutto. E gli scontri ancora di sabato a Roma. Il Corriere della Sera, il Premier, non ci sono soldi, frenata ancora sullo sviluppo, le imprese dicono l'Italia può risalire ma il tempo è scaduto. C'è sulla prima pagina del Corriere della Sera una lettera firma di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, il titolo è questo: ora servono risposte concrete. Ancora sul Messaggero, sviluppo, niente soldi, Berlusconi, inventeremo qualcosa, le imprese dicono tempo scaduto. Così anche stessa scelta per la Stampa, Berlusconi, non ci sono soldi, di il Premier invento qualcosa, spunta l'idea del concordato fiscale. Scelta diversa per la Repubblica, che titola invece Maroni, pagare per i cortei. Linea dura del Viminale, Daspo per i violenti, arresti più facili, ovviamente dopo quel che è successo sabato a Roma. Il ministro propone l'obbligo per gli organizzatori di una fideiussione a copertura dei danni. Che succede? Chi vorrà fare una manifestazione in sostanza dovrà garantire che in caso di danni sarà in grado di risarcirli. Altra tema in evidenza sulle pagine dei quotidiani, il soldato Shalit torna a casa, adesso spero nella pace. Hamas festeggia lo scambio, ve l'abbiamo raccontato ampiamente nella mattinata di ieri, l'immagine del soldato Shalit campeggia praticamente sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani. E poi centro pagina, restiamo sulla Repubblica, maxi sequestro a Unicredit, indagato anche Profumo. Milano, il tribunale blocca 245 milioni di euro, l'accusa frode fiscale. Addio a Zanzotto, l'ultimo poeta totale. Torniamo sul Corriere della Sera. È morto a 90 anni. Quel nostro incontro al caffè della stazione di Mestre, scrive in un pezzo decisamente toccante Claudio Magris sul Corriere della Sera. Roma, preso il ragazzo con l'estintore, l'immagine che campeggia questa mattina sul Messaggero, anche qui ovviamente sul quotidiano della capitale. Ampio spazio va agli scontri di sabato e alle proposte di Maroni. Il Sole 24 Ore, spread Italia e Francia sotto tiro, Moody's downgrade della Spagna, debito francese a rischio, speciale mercati e risparmio. Così il Sole 24 Ore, che a fianco titola Maroni fideiussioni per manifestare, sarà autunno caldo. Questa mattina però vi facciamo fare anche uno sguardo, diciamo dare uno sguardo anche alle pagine interne dei giornali, perché che succede? Boss insulta Tosi, aria di epurazione, scrivono il Corriere della Sera e la Repubblica. Anche questa mattina, come abbiamo già fatto in altre occasioni, andiamo un po' a guardare sui siti e un po' su tutti i siti sentirete una voce, un sonoro, un audio, ed è quello del sindaco di Verona Tosi. Perché? Perché ieri Bossi se l'è presa con lui, ha portato nella Lega un sacco di fascisti, per la verità i toni di Bossi sono stati anche da parolacce. Umberto Bossi si è espresso contro il sindaco di Verona, che aveva parlato proprio a Radio 24 alla Zanzara, e allora ve lo facciamo risentire. Io ho la fortuna di poter esprimermi con più libertà rispetto a chi ha altri ruoli e magari la pensa esattamente come me, ma non può dirlo. Chiamiamolo un po' un gioco delle parti, nel senso che io posso dire quello che voglio e quindi lo dico con più libertà, e magari comunque questo non dico che faccia comodo, ma può essere utile a chi sta a Roma, che porta avanti certe battaglie, e può dire al Presidente del Consiglio: guarda che il territorio, guarda che i sindaci sono incazzati. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani, vi ricordo come sempre l'ampia rassegna stampa poi di Radio 24 alle 7:20 con Alessandro Milan. Andiamo a Bruxelles invece da Antonio Pollio Salimbeni. Perché? Perché questa mattina ci si attende una decisione importante dalla Commissione europea. Bruxelles svelerà infatti quali sono i progetti in Europa per le direttrici di trasporto ferroviario. Direte: cosa ci interessa? Ci interessa molto, perché c'è da capire se il nostro paese sarà cruciale negli interessi di Bruxelles. Ricordiamoci che tra i progetti, tra i corridoi europei, c'è anche la TAV, che non poco ha fatto discutere. Allora, cominciamo subito a capire se ci sono delle novità per l'Italia. Antonio. L'assoluta novità riguarda il sud. Secondo quanto trapelato, alla fine si è trovata una composizione degli interessi. Non si dovrà scegliere fra la costa tirrenica e la costa adriatica per la direttrice verso Malta. Il tratto dal nord al sud avrà una biforcazione a Napoli, verso la Sicilia e verso Bari. Quindi non ci sarà nessuna guerra di territori. L'Unione Europea dovrebbe finanziare la linea ferroviaria Napoli-Bari e Napoli-Reggio Calabria, e inoltre in Sicilia la Messina-Palermo. Ecco Antonio, ovviamente i soldi non ci sono, Berlusconi ieri sera l'ha detto chiaramente, quindi i soldi europei sono ancora più importanti. Cosa succede per il ponte sullo stretto di Messina, ad esempio? Sì, è stato confermato che il ponte sullo stretto di Messina non fa parte dei progetti prioritari europei, resta un affare dell'Italia soltanto, ma questo appunto si sapeva già. Ci sono altre conferme tra le opere prioritarie, troviamo le tratte del corridoio adriatico, e poi Udine, Trieste, Venezia e Ravenna avranno degli aiuti per la loro interconnessione. Prioritaria resta la Torino-Lione, e sarà potenziata alla tratta Milano-Venezia-Trieste, e priorità è stata anche assegnata al corridoio del nord Rotterdam-Genova. Si parla solo di trasporti o c'è anche un pacchetto più ampio? Bruxelles avanzerà delle proposte per l'uso dei 50 miliardi di euro da spendere tra il 2014 e il 2020 in tre settori. Oltre ai trasporti ci sono energia e telecomunicazioni. I trasporti comunque faranno la parte del leone, 3/5 del totale, poco più di 30 miliardi, il resto quasi equamente diviso fra energia e TLC, soprattutto sviluppo della banda larga. C'è infine una novità, sarà lanciato questa mattina il Project Bond. I soggetti che costruiscono un'infrastruttura, per esempio un ponte di importanza europea, potranno emettere obbligazioni per una parte del capitale necessario all'investimento, con la partecipazione di Commissione e Banca Europea degli Investimenti, la BEI di Lussemburgo, naturalmente a garanzia dell'intera operazione. Grazie Polio Antonio Salimbeni. Mi ha raggiunto Dario Ceccarelli e apriamo la Gazzetta dello Sport, prima pagina. Inter pazzo avanti, Napoli anima e core. Mi scusino i napoletani. Bravissima, ci hai messo anche l'accento giusto. Ah, sì, il Napoli, direi che... Parliamo di Champions. Di Champions League. Ieri il Napoli ha giocato contro il Bayern, ha fatto un pareggio 1-1, ma diciamo la verità, per come si erano messe le cose, cioè dopo due minuti erano già in svantaggio con i tedeschi, Zielinski è tutto grasso che cola, perché tutto sommato un pareggio permette a Napoli di rimanere in corsa e ancora deve cominciare a guardarsi dal Manchester City che si è riportato avanti, però comunque non è compromesso nulla eccetera. Va segnalato che comunque il Bayern è una squadra stupenda e quindi insomma giocare col Bayern è sempre difficile. E poi tutto sommato c'è stata anche così la parata di De Sanctis, che ha parato un rigore dubbio segnalato da giudice Ipota. Quindi tutto sommato per il Napoli è una, diciamo, un passo non avanti, però non va indietro, e quindi dato l'avversario ha dato tutto, si può dire che è stata una serata positiva. Dario, diverte più l'Europa che il calcio italiano con tutti questi 0-0 e il campionato lento? Ma sì, perché è più mosso e poi è più imprevedibile, diciamo anche la verità. L'Inter, che per esempio non segna mai no, adesso è una battuta ovviamente, però in Europa arriveranno gli interisti in Europa segna, ha invertito la tendenza. Lille ha vinto 1-0, ha ritrovato Pazzini, che è il suo bomber, che è l'amico che si era perso, e poi ha dato un segno di solidità, di non fare stupidaggini, di ritrovare un bandolo della matassa che sembrava perduto, e quindi è una vittoria che, diciamo, dà una botta di autostima, ecco, inverte una tendenza negativa che altrimenti sarebbe stata difficile da portare avanti. Quindi diciamo che l'Europa è sicuramente in questo momento più affascinante, più appeal per i nostri tifosi. E questa sera abbiamo secondo round. Sì, c'è anche il Milan che gioca contro i bielorussi. Diciamo che non è una partita di grandissimo richiamo, però per il Milan in questo momento è importante riprendere così un cammino di marcia che già in campionato adesso sembra aver ripreso. E poi rimane un po' adesso questo cioè a volte sembra quasi che ci sia un lutto incombente, quello del Piero che se ne va dalla Juventus. Io credo che sia uno di quei temi così che colpiscono molto l'immaginario dei tifosi, perché Del Piero è una delle ultime bandiere del calcio italiano, del calcio tutto direi, un po' come è stato Beckham, come è stato Raul, come è stato Maldini, e quindi per quanto ormai si allunghi l'età della pensione, anche Del Piero forse comunque è destino. Siamo arrivati. Che è arrivato. Prima edizione. Ed è il momento, come sempre, di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi vi portiamo in un posto speciale, si chiama Dinamo Camp. Ci racconta questa storia Maria Luisa Pezzali. Sono stufo che mi dicano che sono un bambino speciale. E allora chiudo gli occhi e le punture fanno meno male. E io sono di nuovo lì. Perché lì potevo sentirmi uguale agli altri bambini ed essere felice. E le mie paure le vedevo piccole piccole. E scoprivo che ero molto bravo a fare delle cose vere, che non avevo mai provato prima. Umberto è uno dei bambini ospitati al Dinamo Camp, un camp di terapia ricreativa, primo in Italia, che accoglie gratuitamente per periodi di vacanza bambini tra i 7 e i 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, oncoematologiche e neurologiche principalmente. Un luogo dove i bambini malati tornano ad essere solo bambini. Equitazione, arrampicata, percorsi avventura, nuoto, tiro con l'arco, scuola di circo, fotografia, teatro, arte. Al Dinamo Camp la cura è divertirsi, conferma Michela. Dinamo è energia, mi viene proprio in mente, diciamo, la felicità. Al Dinamo Camp non c'è nessuno che prende in giro. L'universo si è diviso in due mondi, uno è Dinamo Camp e l'altro è il resto. Aperto nel 2007 all'interno dell'oasi WWF di Limestre, provincia di Pistoia, Dinamo Camp ha ospitato fino ad ora 2.500 bambini, 1.000 solo nel 2011. provengono da tutta Italia e dall'estero: Germania, Australia, Belgio, Canada, Francia, Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Stati Uniti, Iraq, Giordania, Emirati Arabi, Siria, Israele e Palestina. Trascorrere un periodo di vacanza qui rende i bambini più sicuri, permette loro di coltivare autostima e indipendenza. Serena Porcari, vicepresidente operativo di Fondazione Dinamo. Abbiamo avuto una bambina con un tumore al cervello importante e quando è venuta da noi ha deciso che insomma doveva alzarsi dalla sedia a rotelle e per molte volte ha fatto l'arrampicata senza supporto, diciamo, di imbragatura, cioè soltanto l'imbragatura classica ma senza quella che appunto avrebbe retto le gambe, e questo poi insomma le ha portato un tale beneficio che si è portato avanti tutto l'anno, no? Questa sua capacità di aver superato questo limite. Era Italia in Controluce, la prima edizione. Torniamo puntuali 13:30 tutti i giorni su Radio 24. Grazie anche questa mattina Daniele Biacchessi, ancora buona giornata da Anna Migliorati con prima edizione, sono le 6:39 precise in questi istanti, dall'Italia facciamo un balzo, andiamo negli Stati Uniti dove le luci sono rimaste accese a Las Vegas. Che novità direte? Beh, diciamo che si è trattato di luci un po' particolari per lo Strip, la via principale su cui si affacciano i maggiori casinò di Las Vegas, perché i riflettori erano puntati sui 7 candidati che si sfidano alle primarie repubblicane. Governor Perry, in your state you have a 6.25% sales tax. Would taxpayers pay more under the 999? C'è stato il dibattito che precede, che è il cuore della corsa alla sfida ad Obama alla Casa Bianca. E allora io saluto Mario Platero, buongiorno, anzi per te ormai buonanotte. Buongiorno, buongiorno a voi. Si attendevano molte indicazioni da questo confronto a Las Vegas tra i candidati repubblicani per la corsa alla Casa Bianca. Mario, sono arrivate le indicazioni che si attendevano? Ma sono arrivate fino a un certo punto, nel senso che Mitt Romney si è confermato il candidato di testa. È stato sotto attacco Mitt Romney, devo dire, è stato un dibattito molto più vivace, sostenuto, aggressivo fra gli altri che ho visto in passato, perché tutti quanti si sono coalizzati chiaramente contro il vincitore apparente, contro quello che è in volata, che si è staccato dal gruppo, che è in fuga verso la nomination, contro appunto Mitt Romney, ex governatore del Massachusetts, quale però ha incassato i colpi, devo dire, con una flemma straordinaria, anzi molto spesso ha controbattuto e a sua volta è diventato aggressivo. Devo dire, questo Mitt Romney è cambiato, ha avuto una iniezione di personalità che prima non aveva, era un candidato piuttosto mite e invece ha tirato fuori le unghie, i denti. A un certo punto Romney ha cominciato a chiedere a Herman Cain, che è un altro candidato, l'afroamericano che sta guidando anche lui questa corsa, è al numero due, e gli ha chiesto di spiegare meglio la sua posizione. L'economia domina questa campagna elettorale, la sua posizione sulle tasse al consumo. È molto conosciuto Herman Cain per questa sua proposta del 999. Allora Cain ha risposto dicendo: ma tu parli di arance e di mele, non puoi mischiarle. Insomma, lo ha bacchettato. A quel punto Romney ha stanato Cain, che ha dovuto ammettere che le tasse in effetti sono sia a livello statale che a livello federale, e gli ha fatto un contrattacco, gli ha detto: ma guarda, tu praticamente in effetti mi metti le stesse mele e le stesse arance in un cestello e sono alla fine tasse sia a livello statale che a livello federale. A quel punto Cain è rimasto un po' sbalordito da questa prontezza, devo dire, con cui Romney ha contrattaccato. Questo è soltanto uno degli esempi. Sì, l'economia domina. L'economia domina, Mario, ma è inevitabile ovviamente in questo periodo storico. Ci sono altri temi che stanno emergendo o è un dibattito a tema unico? No, ci sono altri temi. Gli altri temi sono l'occupazione e la sanità. E ieri si è parlato di questo. Di nuovo Romney è stato sotto attacco sia per l'uno che per l'altro. Lui è stato l'ideatore della riforma sanitaria non dissimile da quella che poi organizzò Barack Obama, dunque i suoi concorrenti lo hanno attaccato dicendo: ma come, tu dici che la riforma di Obama non va bene quando tu stesso sei stato l'ispiratore di questa riforma? E lì Romney naturalmente ha spiegato che non era vero e ha fatto una serie di distinguo. Sul fronte immigrazione, di nuovo un attacco di Perry, il governatore del Texas, colui che doveva essere il grande traino di questa nomination, invece è stato un po' un flop finora, lo è stato di nuovo ieri sera, perché era buffo, cercava di attaccare Romney senza però riuscirci fino in fondo. Mario, con quelle che fu la corsa democratica, emerse Obama, quindi emerse un personaggio che sicuramente spiccava sopra gli altri, soprattutto nella volata finale, ma si era visto pian piano arrivare. Secondo te qual è il personaggio nuovo dei repubblicani che invece ha più chance, o comunque è la personalità più nuova che si sta imponendo? Ma guarda, non direi che non c'è storia, la nomination andrà a Mitt Romney, credo che potremmo annunciarlo in tutta tranquillità qui al tuo programma anche dopo il dibattito di ieri sera. La personalità più curiosa, nuova, è quella di Herman Cain, l'ex amministratore delegato di Godfather Pizza, un afroamericano che non ha mai fatto il politico, è stato soltanto l'amministratore delegato appunto di una catena di pizzerie, eppure è un uomo di straordinaria vivacità, intelligenza, prontezza, infatti guida in alcuni degli stati dove si terranno le primarie caucus i sondaggi. Ecco, non credo però che abbia il respiro e che la sua campagna abbia la profondità per poter tenere il passo, per poter andare avanti. Romney ha dietro di sé l'establishment del partito, una gran quantità di quattrini, è riuscito ad avere l'appoggio di Cristi. Direi che oggi è lui il candidato vincente. E naturalmente questa corsa continueremo a seguirla con te, vedremo se, ma insomma pare che il pronostico questa volta sia davvero, davvero facile. Grazie, nel frattempo ti lasciamo andare a dormire, Mario Platero. Buona giornata. Grazie mille, buonanotte, grazie. Per noi c'è il traffico, gli aggiornamenti per chi è già in macchina a quest'ora, e poi andremo in Libia con una piccola sorpresa che ci ha preparato Dario Ricci. Prima edizione. Vi avevo promesso una piccola sorpresa di Dario Ricci. Perché? Perché c'è già pronto l'allenatore della nazionale della calcio della Libia. Chi è? Chi potrebbe essere? Per la verità, Claudio Gentile, il campione del mondo dell'82, ex CT dell'Under 21 azzurra, a offrirgli la panchina di Tripoli. Sono stati degli intermediari un po' particolari, lo racconta lui stesso in questa intervista di Dario Ricci. Non ho questa certezza, cioè, ho dato la mia disponibilità per, se le cose si metteranno come sembra, di essere così disponibile a ricoprire quel ruolo lì, però finché non ci sarà una chiarezza non si può dire niente, ecco, anche io non so niente. Ecco, comunque possiamo dire che è stato ufficialmente contattato da chi? Da quali rappresentanti ufficiali del governo o della federazione provvisoria? No, io devo dire che tramite dei politici di italiani che hanno avuto questi incontri con questo governo provvisorio, so che hanno parlato anche di questa cosa e quindi, però adesso bisogna vedere come andrà a finire, cosa succederà, Gheddafi se lo prenderanno o meno, insomma. Quindi insomma è necessario che la situazione politica si chiarisca. Eh beh, sicuramente, altrimenti non vado in un posto così alla cieca. Oltretutto, da quello che sento, stanno ancora sparando e tutto, voglio dire. Ecco, è curioso, mi consenta la sottolineatura, è curioso che dei politici italiani, nel momento in cui sono andati o stanno andando in Libia per trattare anche cose molto importanti, si preoccupino anche del CT della Nazionale. Ma io penso che questo sia nato dal fatto di un'intervista che io avevo fatto parlando più che altro di Gheddafi, della Libia, e poi mi fu fatta questa domanda: ma lei andrebbe a allenare la nazionale libica? Io ho detto: so che non è prestigioso andare a allenare la nazionale libica, ma lo farei solo per una questione affettiva, perché è il paese dove sono nato e mi piacerebbe ritornare, e quindi diciamo che ero disponibile a questa soluzione. Ecco, però ci tolga questa curiosità, sa di che schieramento sono questi politici, almeno sono addirittura dei rappresentanti governativi del nostro governo? Rappresentanti io da quello che ho saputo che mi hanno chiamato facevano parte, non so, di una delegazione italiana di politici che erano giù per questione di rapporti con la Libia. Mi avevano chiesto se c'era questa disponibilità ad andare alla Libia. E questa era l'intervista di Dario Ricci a Claudio Gentile, campione del mondo dell'82, ex CT dell'Under 21, azzurra, libico di nascita, che come sentivate potrebbe tornare a decidere di allenare la nazionale di calcio di Tripoli. Alessandro Milan nel frattempo mi ha raggiunto, buongiorno. Sono raffreddato, ecco, lo dico, sono raffreddato abbastanza, però sono qua. Che devo fare? Sono malanni di stagione. Succede a tutti. Quiz, Anna, ti faccio un quiz. Chi ha detto questo è facile? Non ci sono soldi. Questo è facile. L'ha detto Berlusconi a questo punto. Mentre invece chi ha detto è finita su tutte le prime pagine dei giornali, meglio stare in carcere piuttosto che lavorare. Ovviamente le due cose non sono collegate. No, per carità, assolutamente no. Lady Gucci, Patrizia Reggiani, che fece uccidere il marito, per questo è stata condannata a una pena molto alta, credo 24 anni, ne ha scontata la metà, quindi ha diritto alla semilibertà, ma il giudice del tribunale di sorveglianza ha detto: signor giudice, io non ho mai lavorato in vita mia, non inizierò certamente a lavorare a 62 anni, e quindi guardi, mi lasci pure in carcere, perché io non saprei che fare fuori. Hai deciso questa mattina di stuzzicare subito gli ascoltatori? No, ma questo su tutti i giornali: lavorare meglio il carcere. Questo è il titolo, cioè ovunque, Libero, La Stampa, Il Corriere della Sera. Mai lavorato, non voglio uscire. Tra l'altro è uscita per un periodo di, non so, una giornata di semilibertà, l'ha passata nel quadrilatero della moda in via Monte Napoleone a Milano, insomma, per fare acquisti. Vanna Marchi, no? Che fa la barista al confronto. No, esatto, fa molto discutere questa cosa. Patrizia Reggiani, in realtà il tema è molto serio, ha detto: non ho mai lavorato in vita mia e quindi rinuncio alla semilibertà, molto meglio il carcere. Senti, poi ti racconterò una storia, oggi racconterò ai nostri ascoltatori una storia, questa è veramente molto triste, non so se ti ricordi di Giulia, quella ragazza che nel Love Parade di un paio d'anni fa, credo 3 anni fa, rimase schiacciata insieme a altre ragazzi e rimase vittima. È arrivata dal colosso assicurativo AXA dalla Germania un risarcimento per la vita di questa ragazza davvero incredibile, 2.000 euro, solo 2.000 euro, una cosa che in Italia già dicono non sarebbe pensabile, ci sarebbero almeno 150, 200.000 euro, invece l'assurdo risarcimento assicurativo offerto da AXA, legali della famiglia, è questo, e ovviamente tutti i titoli, insomma, la vita di Giulia vale 2.000 euro, è davvero una storia incredibile, davvero incredibile. Grazie ad Alessandro Milan, come sempre più ampia la rassegna stampa alle 7.20, grazie a Viola Bottoni, a Carmelo Lauricella, restano in regia, restano qui perché la mattinata di informazioni di Radio 24 prosegue. Noi ci risentiamo già tra pochissimo con GR24. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati.